grande buffo, caffa! Siamo accorti qua fuori 10, tu 7, 8, 7, 9, 7, 8, 7, 9, 7, i positivi a 9, minchia, ce ne va avanti con la zona, io già capito. Per il paese c'è tutto favorevole, no, ma per tutto, perché con la cura che c'hai, che se c'hai già un lineare, il palazzo lineare già per te. Infatti non avevo mai sentito questa differenza. Vabbè, la piana di Italia ce l'ho avanti, quindi sono talmente alto che la vedo. Mi radia molto bene, ragazzi, c'è molto giù, però pensavo che con la potenza riuscissi ad arrivare al mio segnale invece. Molto durato il sole, adesso siamo tutta la settimana così. Io ero al telefono con Vittorio, con il centro assistenza, dove ho mandato il 140, non ce l'ho fatta a spedirmela in questi giorni perché ho incasinato, ma la spedisce domani, la spedisce giù domani. Avete parlato in due, chi è? Claudio Pedivella, Gianni Pedivella. Vai, cavalletto. La radio militare già non sono uscito stamattina, mi serve un cavo lungo almeno un paio di metri perché non la posso appoggiare sopra le altre radio, se no me la graffia. E quindi domani mattina prendo un cavo lungo almeno un paio di metri per arrivare all'alimentatore 24. Se avessi avuto la spina 220 ce l'ho sotto la scrivania. La centralina 220, ma l'alimentatore a 24 volte da tutt'altra parte, capito? Quindi ci devo arrivare col cavo. Certo, te la faccio sentire. Non ti preoccupare. Per il re. Claudio, c'è il flè. Mi ha appena rientrato da fare la spesa. Ma più o meno sta lì alla croce. Da adesso no. In campagna la carica sì. Stava piovendo, là. Mi sono accorto della roba, c'era lo stendino fuori che è servito una raffica che veramente l'avevano fatto tutto in terra, meno male che era pulito quel giorno. Che palle, adesso inizia nuovamente a piovere e buco, avanti i gialli. Comunque la potenza mi è andata volando tutta, era a 24, 200. A 200, vabbè. Assistenza, eccola qua, questo fischia bene. Adesso vediamo come fischia l'altro. Infatti ho detto ho questo qua che è stato revisionato a 170 di Bianconi, c'è anche l'adesivo attaccato con la latta della latta revisione, oppure l'altro che deve arrivare che è lo stesso, un altro centro assistenza, però non dico qual è, capito? Però sono tutti e due revisionati a posto, con la fesserie, infatti me l'ha già detto al telefono che erano fesserie da vedere e basta. KK, quindi ti ripeto, due opzioni, una 140 MC60 e colonnina esterna SP430, oppure l'altra 140 microfono normale. Prezzo non ce n'è mercatino qua, prezzo al telefono, chi vuole sapere il prezzo glielo dico al telefono. Non regalo niente, per capirci, ok? La radio con l'MC60 la colonnina esterna, quella sale di prezzo, mentre l'altra rimane al prezzo normale che si vendono, ok? Comunque se qualcuno è interessato basta mi contatto il telefono, il telefono mio ce l'avete tutti, ma così mi tolgo la mezza alle balle anche queste e non rimane una sola. Venerdì, domani, ha detto che è già pronta, stamattina la stava usando, ha detto che è una bella bestiolina, è nuova, tutte e due sono nuove, questa mi sembra ci abbia nel bordino che non si vede neanche, ma non è un graffio, proprio appena consumato il grigio, mentre l'altra è proprio immacolata, nuova, dentro e fuori, così mi ha detto, come ti sto dicendo, comunque, chi vuole dettagli più importanti basta che mi chiami, non c'è problema. Va bene, pubblicità. No, non ho bisogno di fare pubblicità io, ma già vendo 220 di 140, vivere. No, ma le voglio togliere a mezzo ai piedi perché così uso definitivamente il baracchino e questo adesso era 3, 4, 5 giorni spenta, però chiaro che c'è. Se ce l'hai la devi usare, anche se non è come il 440 che ci va dal rum, però è meglio sempre usare questa radio, no? Così ho questa base, questa scrivania qua dove c'è il 140, il 430, l'alimentatore, eccetera, tutta la roba lì, la tolgo e via. Mi metto un divanettino lì, capito? E uso l'altra scrivania dove ci sono i baracchini. Perché ne ho due, capito, se no mi schiva la con la setta, non va bene. Così sono finiti i giochi, solo 27, no, così non accolto la macro HF. Ma dai, che qui ti viene la voglia di ricomprarti, già lo so come sì. No, non c'ho 430, 430 mica lo do, no, ce ne ha nessuno soldi a comprare il mio 430. Ma non ne ha nessuno da me, guarda, se lo vorrei rendere mi chiamo a Benito, se lo compro subito, perché me l'ha già detto, quindi, che sto cercando un 430, ma il mio 430 non uscirà mai da qua, in modo più assoluto. I 240 sto vendendo, questo qua è quello che ha cento assistenza, capite, mi tengo il PS430, l'alimentatore di linea, capito? La linea centrale del 430 mi tengo ma giusto per così, perché magari sempre meglio averla. L'antenna non ne ho più, quindi non la posso più fare a testa. E poi c'ho l'altra colonnina che ho comprato, 50 euro, sempre SP430, c'ho la linea del 430 e i 240 li faccio fuori, capito? Sì. Ma uno lo tengo già, uno lo tengo, ma giusto per la 27, non è che la giuri fa altre 12. Sono 2 anni che non faccio un corso in HF e via, i due usano almeno 3-4 anni. Chi è vero? Vedete voi, se serve qualcuno, queste sono due belle radio, belle da vedere e belle da usare, capito? Che arrivano tutte e due, proprio belle all'inizio. impegnate e combatte come i soldati. E già fanno bene con le radio, fanno bene, solo che oramai sono radio usurate, ti partono i componenti, ti parte tutto. Sono radio che hanno già fatto il suo lavoro. Io adesso vorrei comprare qualcosa di nuovo. E di nuovo, gli HF nei ragioni un po' di Nalluda. Cosa sono usurate? Cosa c'è da usurare in questo radio? Si sta guardando un muretto già, non c'è attento. Poi ti ripeto, sia questa, Bianconi l'ha tutta completamente riallineata, controllata, tutta la componentistica, ha cambiato qualche componente, sì è vero, però è la radio, mi ha detto che è perfettamente in ordine. L'altra addirittura ancora più in ordine di questa. Ho visto, mi va al telefono 5 minuti fa, perché me l'ha detto, me l'ha spedito a martedì. Invece è stato male, c'è un problema alla cervicale, Vittori, quindi è stato male. Allora me la spedisce domani, adesso. Così lunedì e martedì ce l'hai a casa, va bene. Ottimo per la truppa, infatti mi ha mandato le firme del pagamento. Adesso domani mattina le faccio la ricarica Forse Pay e siamo a posto. E i giochi sono fatti. Capito? Anda bene! Vabbè, chi c'è altro? No, però stavo molto zappando con Massimiliano. Mi ha mandato un altro audio, forse era in viaggio che stava rientrando. Aspetta che le rispondo, io sono qua, l'ho già. Eia. Eia, e così è, già va bene. Chiaro. Qui non c'ho più posto di un cavo, non c'ho manco alimentatore, adesso non c'ho manco alimentatore perché lo sta aggiustando. Ne ho solo uno da 30 e uno da 35. Con la 50 è riparazione. Pace bene a tutti. Oi Gianfra. E me padre Gianfra. Anche la pioggia è tornata, visto? No, ci lascia in pace. Ce l'hai fatto quel lavoro, Gianfra? Ma che attualmente sto facendo il boscaiolo. Quindi appena possibile farò anche il pompiere. Tagliando legna. No, sto predisponendo il taglio laterale di molti rami su un albero alto in modo da poterlo buttare giù, perché mi fa ombra, è mezzo pericolante e quindi mi occorre tempo ovviamente, perché tra lavoro, tricatarac, dare retta a Claudio, queste cose qua, sono impegnatissimo e quindi... Quindi quella lì dovrà aspettare purtroppo, anche perché basta un po' di umido e su quel tipo di scale non si può salire. Errori non se ne possono commettere, lì è veramente al primo che commetti ti inguai. Avanti Claudio, ci vuoi salire sulla scala? Ma per sempre più, lasciami stare a terra, ma questo qui ho soprattutto questo mal di schiena che c'ho, io ci vuole proprio la... Sono salito quando è quella mattina che ha fatto dalla giornata, ho fatto una girattina ai tiranti, poi si era staccato un anello di quel di polo, l'ho messo a posto, capito? Lo volevo lasciare per terra, mio manco non funzionava più, perché in terra non si sente una mazza, infatti me ne sono accorto da quello, c'erano segnali troppo bassi. Sono salito per la terra, quindi l'ho riagganciato all'anello e buco. E anche io già c'ho la scala, quanto è? 2 metri, 3 metri, che aggancia alla mantovana e poi sali su, capito? Va bene, lasciate stare le scale, prendete l'ascensore, avanti già. Eia, chiama qualcuno. Chiama qualcuno, chiama me stesso, infatti ho chiamato me stesso, più esperto di uno che si mette un traliccio tutto da solo, anzi non uno, due, ad altezza di 10 metri prima e poi ridotto a 8 metri, sempre da solo, l'anno scorso per essere esatti. Ne ho smontato un pezzo perché era troppo lungo e neanche la scala ci arriva. Capito. E devo chiamare anche qualcuno, no? Secondo te cos'è che fa? Devi salire tutto, ci andiamo. Grazie per il complimento, Claudio. Perché dimostra che nonostante la serietà sono abbastanza agile da fare anche queste cose. Se mi devi vedere, oggi ero su una scala non come la tua, giocattolo, ma su una scala di quelle telescopiche, no? In alluminio, che sono 4 più 4, dovrebbe essere intorno o ai 6 o agli 8 metri, credo, perché telescopiche. Poi è poco muovere per questa cosa. Comunque, uno grosso rosso è stato tagliato. Adesso piano piano mi faccio gli altri senza cose, poi appena finito, ma soprattutto non occorre il tempo, sia il tempo di farlo sia il tempo buono, perché sono lavori che fate adesso, vedo, ho fatto allora di pranzo, adesso non si può più uscire da qua perché è tutta acqua, è una cosa che non si crede. Compagnia, così, io sono andato l'altro giorno a trovare appunto loro e la tutta la gara. Nonostante sia il tracciamento, piazzale eccetera, però c'è un po' di acqua, ne ha fatto tanta, ne ha fatto tantissima di acqua, quindi è un casino, vabbè. E cosa vuoi che ti dica? Bisogna aspettare l'estate adesso, avanti già. Che è? Cosa vuoi? Cos'è la tua cantina Santiago? Una rottura di palle a un Samsung, come diavolo si chiama, si è fatta la pesca e non mi voleva copiare la rubrica, e quindi adesso con santa pazienza sto facendo anche quello, manca palle. Quanto li odio questi telefoni rognosi. No, ho visto una portantina, tu Santiago 8, chiamato Gianni ma non risponde, lascia il telefono già, vieni Gianni, lascia il telefono. Adesso ci hanno torna, ha lasciato, cioè ridato i telefoni, no? E quindi mi tocca pure programmarmelo, me lo devo lasciare sempre acceso, già c'avevo l'altro acceso che era mio, ora ne ho 3 i telefoni, con 3 numeri. Voglio vedere come faccio vabbè, questo qua è solo per servizio, ma che palle, sta diventando veramente una rogna. Beato te che sei in pensione e te ne freghi, hai un po' di, come si dice in gergo, cacchi per il culo, amico, non dire altro, faccia perdere. Cioè mia moglie è ancora messa male, non sta bene, qua sono incasinato questo, lascia perdere. Guarda, ma è stato bene al lavoro, almeno non c'era a casa, si arrangiava, invece così sei presente e devi dare il contributo, capito? A tutti così sei Dio, tutti quelli che sono andati in pensione, ce ne fosse uno, se l'avessi saputo. Infatti un po' ieri che sono andato in ufficio in presenza, mi sta passando l'ora, guarda, ma cosa mi c'è? Volevo rimanere 10 minuti, ci sono rimasto 2 ore per vedere quello, e dato che un anno non ci vedi, l'altro, ciao, oi. Cos'è una telegrafia? Ma cosa vuoi? Ma vai a giocare un'altra parte, vai. E compatti l'antenna e mettiti un segnale. Sentiamo 7, ma cosa vuoi? E mi fanno ridere. Vanno a disturbare con questi segnalini del cazzo. Non ho capito dove vuoi andare. Vuoi disturbare a me o a Gianfranco? E ti viene un po' male. comunicazione, Claudio, da fuori. Infatti sto controllando anche adesso, ho richiesto una specifica su un apparato che devo arrivare, che ti piace o no, poi ti arruolo per provarlo. E mutumi. Già lo provo, se io con quel tipo di radio non è che ci vado molto d'accordo. A me piacciono i bagioni, no? Quelli con le grandi. Comunque. Già lo proviamo, dai, ti accontento, io te lo faccio sentire. Infatti, te lo lascio lì per uno o due giorni. È proprio. Mi serve anche se di pacca, è proprio nuovo, ma non nuovo, di più, scatolato quasi, mi deve arrivare la scatola, qualcosa dentro, mi auguro, solo che devo fare alcune modifiche all'interno, perché dobbiamo spostarlo da uno standard particolare, che sarà uno standard almeno civile, quindi... Non lo potrebbero neanche vendere, capito? Quindi mi ho trovato un altro pulsante davanti all'immagine, ci sono, ecco. Quindi appena arriva, mi auguro, spero la prossima settimana o all'altra che viene, vediamo un po' cosa, se ti piace, però non te ne innamorare. Io lo so, io non ho problemi con Gianfranco, se me ne innamoro già rimane qua. Che anni però, ragazzi, ma chi se ne immaginava una cosa del genere, di tante rotture, si può dire, di palle, veramente, una dietro l'altra, cioè praticamente sto lavorando il triplo e sono sempre a casa, ma per carità, stavo pensando infatti di, solo che non sono autorizzato, di rientrarmene. Domani ci fanno fare anche le prove, i test per la salute, se siamo idonei a riprendere il servizio, tutti quelli che erano fuori. Vediamo un po' cosa succede, ma mi pare che la situazione sia sempre più losca, diceva quello, perché anche se siamo sani noi, non sono sani gli altri. Normale, qua in Sardegna ancora, per adesso siamo tutti, non dico sincari, ma quasi. Però i chiari di luna mi sembrano piuttosto tristi. Stavo guardando le statistiche di tutto ciò. Sì, ci sono dei cali, ma sono anche degli aumenti, quindi non so cosa sta succedendo. Non ci voglio più pensare, guarda. Non ci voglio più pensare. Comunque, ormai è così. Se vuole cambiare, cambia, se no faccia quello che vuole. Stavo dicendo, il marito di Marcella, tuo ex collega, è in pensione ancora, come si chiama? Non mi ricordo mai come si chiama. Qui, sì. Sì, in pensione esattamente dal 1 gennaio, adesso anche lui fa la sua stessa tirittera, si tira che un mese che le diano la pensione con calma, poi per la liquidazione non so quali sono i tempi, anche se lui è andato non di vecchiaia ma di contribuzione, capito? Cioè lui aveva 41 anni, la Fornero anche lo prevedeva, che se ne potesse andare, mi sono andato. Però la liquidazione non lo so, credo che ci facciano 2 anni, una cosa del genere. Comunque, si è preso il cane, sta bene adesso. Solo che sì, stai bene, però non ti puoi muovere da lì, e quindi siamo sempre. L'attività è sempre quella, uno che se fa in pensione secondo i miei desideri, le mie aspettative sarebbero quello che inizia, che ne so, domani vado a girare Roma, domani vado a girare che ne so, la Sicilia, domani me ne vado in Val d'Aosta, insomma quelle cose lì, ecco, ma mi pare che qua la se ne va in pensione per stare dentro casa. Sì, beh, ha fatto come me, forse anche più piccone, non lo so, o più grande di me, non lo so, se ha più di 60 anni, 62, non lo so. Sì, sì, già, ha fatto la stessa cosa. Vota 41 anche lui. Sì, c'è il cane, bellissimo, c'è un labrador nero, molto bello, gioca molto col mio. Infatti speriamo quando è grande lo mettono le sigine, no, oh, impazzisce per il mio rimane fermo, ci fa fare di tutto. Perciò già, magari quando è grande quello, come il mio non c'è più, è già tutto acciaccato, tutto molto male, già, vabbè, 9 anni c'è il mio, quindi, sì, ci vediamo spesso giù, fermo a chiacchierare, eccetera, è una brava persona, io non l'avevo mai avvicinato, ho capito, lo salutavo solo, però già si vede che è una brava persona. Sì, sì, guarda, è bravo, è un pezzo di pane, bravissimo, devo dire. Bravissimo, ma nel suo lavoro è stata una persona veramente competente, proprio cercava per quanto possibile di accontentare tutti. Ed eravamo sempre fuori, soprattutto anche, era sempre in giro con me, andavamo sui tetti, per i ponti radio. Insomma, una bella esperienza veramente, devo dire che ho trovato pane per i miei denti e anche grande divertimento, perché poi ci divertivamo parecchio. Vabbè, sai com'è. Adesso, dunque, a me tocca, prima di me quanti ce n'è da, che ce ne vanno? Ce ne sono due che potrebbero andare via. Però stanno rimanendo anche loro, poi possiamo vedere, ecco, io ripeto, non sono molto convinto di andarmene, perché comunque sono e rimango un appassionato di quello che faccio, ecco. Penso che sia la cosa più bella che ci sia, fare un lavoro che piace, perché c'è anche la gente che questo lavoro lo odia, mentre invece io e tutti i miei colleghi in generale le piace tantissimo, perché sono tutti appassionati. Ciao Franco, stiamo mettendo la portata. Sì, ma da te però qua non passa, è Santiago Nuovo la portante, quindi è quella vicina a casa tua, Gianni. 9.30, sul più del 9.30. È vicino a casa tua, no, va tenuta Gianfranco, ti vuoi fare Gianfranco è 9.25. È Santiago Nuovo la portante qua, ho fatto una gaggata per dove. Mi turba Gianni, perché a me Gianfranco non ci disturbi. Io Gianfranco. No, so, sì, che me l'avevano già detto che no, era un bravo tecnico, quindi ti ripeto, io non è che ci vedevamo a volte alle riunioni di condominio, ci vedevamo qua giù, ciao, invece adesso mi sto proprio fermando, facciamo due chiacchiere, giocano i cani, e quindi insomma lo sto frequentando un po' di più, mi sono accorto che è una bravissima persona, e appunto mi ha raccontato che è andato in pensione da 1° gennaio, con quota 41 come me. Va bene, avanti Gianni, se non mette la portante tanto non mi senti, quindi non aumento niente, rimango così, se però sappia che la sto mettendo a te la portante, non a me. Se venisse ma vado subito che c'è altra gente, e wow, ecco, non posso usare roghi, non devo sentire nessuno, no, Gianfranco ma la portante non lo so. Vabbè, se magari viene sul 20 e mette la portante anche sul 20. Non lo so, a me io manco il gioco, Garè non lo conosco, quindi non me la fatti nulla, se vuole continuare a mettere la portante che la metta, ma sta solo perdendo tempo, perché a me Gianfranco non ci fa assolutamente niente. Oh ragazzi, io sto andando con un vate, se volete posso aumentare, non c'è problema, ci vado perché lascio la città, lascio gli apparati così a riposo. Mi auguro che questo capisca al volo, che non sarebbe un problema capire da che zona sta andando. Cosa dici tu Claudio? Ali conveni mettere portante? Se non vuoi 25 così, ma mi la faccio una gaggata. Avanti Gianni, riprendi. Sì, non la metti più adesso. Stavo andando a Rocca, la metteva tu così. Sì, l'ho portata anche da poco fa, ma c'è anche la nuova, quindi non mi sono preoccupato. Però essendo vicino a te, è chiaro che che non ci copre, ci copre, oddio, se a un certo punto non è che se aumento magari già mi siete lo stesso, ma rimango qua, non me lo fate notare abbastanza a me. Oi oi, che divertimenti che ci prendono. Allora comunque forse qualcuno che non esce perché con un altro di spettro, quello che sta facendo prove se dovrebbe essere su un altro canale, quindi qualcuno che non sta uscendo il microfono ci sta provando a uscire ma non ci riesce. No, non è così, non è così, già fa perché te la metti a colpi la portante, tu così. Uno che non esce preme il microfono, salta il microfono e cerca di parlare, ci sta un po', invece questo qua è tu. Chi c'è solamente qualche giorno? Sento strano, ma non so, ci deve essere qualcuno vicino. Sì, sarà Luca Solventi, secondo me. Forse, perché mi è sembrato di capire che è lui. Mi è sembrato, ma non sono sicuro. Perché quando si va a passare esaurimento, che va in capo, a chi se lo dice va, allora magari rientra qua nel 10. Io, vabbè, ognuno fa quello che vuole. Quando è malato di mente, capito? Invece in cazzo a me, c'è in cazzo a due, per non penso. Ci buca buca battimana, tutti lo sai bene, non funziona. Parli al diavolo nel punto ancora, adesso mi è arrivata l'email. Carissimo, siamo lieti di informarla che è in arrivo il suo eccetera eccetera, quindi preparati. Quindi appena arriva cosa vorrei, lo sballare io? No, lo provi tu prima o poi vai a me. Sì, beh, lo provo io, ti programmo solo una memoria, due memorie al massimo. E poi vediamo, te ne metto una in digitale, digitale HF, una in digitale classico, sempre sulla 27, così vediamo come si comporta, e un'altra su un canale alternativo per fare una prova, una cosetta così, senza troppo impegno, giusto per vedere come va. Anche quello ovviamente, claro, ricordati che l'attacco sarà BNC, perché tutti quella razza d'apparecchi hanno tutti BNC. Non c'ho niente in HF, io non posso trasmettere, no, io te lo posso solo provare qua in 27, capito? Tu Raduisi, questo fa tutto, non hai capito, quindi la 27 se la mangia come niente, quindi lo puoi provare in 27, ho detto, anche in modulazione digitale, totalmente digitale, quindi né analogica, né FM, né SSD, anche analogica, che quella è la cosa che mi interessa di più. E poi in banda laterale, per non disturbare ovviamente nessun canale diverso da questo. E così vediamo un po' anche cosa si vede, perché ti dà anche quello, oramai ci sono tutti con l'analisi di banda, no? Quindi vedi, non solo l'ascolti la radio, ma la vedi pure. Insomma, già è un giocattolo molto bello, dai. Va bene, quando poi arriva lo vediamo, avanti Gianni. Se vuoi andare nel 20 vai al 20 Gianni, non ce n'è problema, tanto Gianfranco mi sa che fra un po' si dovrà allontanare, non lo so, riprendi. No, non è che voglio andare nel 20, io ho detto se in caso non vi sento perché mette la portante, cosa ci sta a fare qua? Ma adesso ci senti? Adesso sì. E allora pensa alla salute, magari qualcuno che stava provando, ti ho detto che l'ho visto una volta che rientra il segnale e qua te lo insegue e quindi stava facendo altre prove. E sto guardando e c'è anche propagazione, ragazzi, lo sapete. Ma te lo spieghi tu qua? Ha piovuto, ha fatto tutto quello, mi c'è la propagazione. Boh. Cosa hai detto, Gian? Andiamo e andiamo, sì. Gian, non ti ho capito. Ho detto dove la propagazione, non vorrei provare. Canali alti, se vuoi ti dico anche la frequenza. Dimmela, così vado a vedere. Dammi un secondo. La documentazione che c'è Gianfranco ti dice punta penna e caramaio, ti dice Gianni, capito? Quindi, occhio è importante che Gianfranco le pitica subito. Guarda, c'è un bel segnale a 395, dovrebbe essere il canale 39, credo. 390-27-395. Sì, 395. Oh, tra l'altro io non ce l'ho tante. Vabbè, forse mai la mia antenna non rende, non rende. Importante, sì, c'era poco fa lì, deve essere nella zona vostra, 9.30 Gianni, a me ne arrivo 9. Poi vedo che stanno parlando sempre su 23, segnale abbastanza furto. Sì, sono tutti nel 23, nel 20, io già sono qua, canale 10. Chi vuole entrare entra, chi non vuole entrare rimane nella porta. E poi ci sono 4 o 5 stazioni discrete che stanno trasmettendo sui canali alti, però è tutta roba di ex. No, tutta roba minuta. Sì, da fuori, sicuramente sono in banda laterale. Ehi, ehi, ma tu lo vedi dall'analizzatore? Sì, sì, in real time. Guarda, chiunque vuol fare una prova, conta fino a 5, l'abbiamo fatta con Marco, su tutta la banda, dalla, qua quanto sono, 26, 26, bassa o alta, come ti pare, e io immediatamente ti dico dove vedi. Sì, io lo so, perché tu già lo so che riesci a vedere un po' tutto. Sì, sono questi nuovi che stanno uscendo, sono spettacolari, spettacolari. Aspetta, io devo fare un'altra cosa, mi dimenticherei di una domanda. Però c'è andare anche la stufa perché la temperatura, insomma, non è proprio alta. Guarda, non c'è freddo, freddo non ce n'è, assolutamente. Però ha iniziato veramente a piovere, è una grande rottura di balle. Vabbè, pazienza. Vediamo un po' se vuole entrare qualcuno sul canale 10. No, tutto recce di buco. Gianni, riprendi. Dove è andato Gianni? Fare 10. A vedere se si sente. A vedere se si sente sicuramente. Claro, e poi tra quella roba ce n'hanno due anche. Due caricabatterie. Uno è uno della Vata e di lì c'è anche la riduzione per quelle piccole, ma penso che lo sia usare, ce ne stanno quattro davanti e dietro. L'altro lo stesso è un caricabatteria, però un pochettino più vecchiotto, ecco. Però quello là, quello piccolo è abbastanza efficiente. Poi quello scatolone, quello crema, quello lì, se lo sa usare, lo provi, vedi un po' come fa. Però a me, ripeto, non è roba che mi interessa più. Poi ci sei riuscito a comprare il cavo per quell'altro, o ancora sei in alto mare? No, già stamattina ero incasinato a fare altre cose, c'ero qua vicino. Vicino al dati, l'ho messa, devo solo comprare il cavo lungo un paio di metri, 2-3 metri, perché l'alimentatore 24 è da un'altra parte, capito che mi alimenta quel lineare, quello stato solido 24, quindi è lontano dalle radio, non ci arriva. Per doverlo accendere devo metterlo per terra vicino all'alimentatore, quindi faccio prima il cavo, tutto per bene. Ne metto due mammut eccetera, lo innesto e poi lo provo. Tanto ho bisogno della tua di te per muovermi con quel tipo di radio lì, capito, perché non l'ho mai usata, non voglio creare danno, non voglio fare, capito? Adesso appena metto il cavo che lo accendo, ti telefono magari e ci spostiamo in un canale e facciamo le prove. Non so manco come, ho visto sì dove si accende, ma non so altro, capito? Ho bisogno della tua assistenza. Vediamo se è rientrato Gianni. Sì, io sono qua, dai. Non è roba per me, non si può prendere nulla di sui visiti, voi sono esteri, non so manco che lingua sia. Dimmi Gianfranco, tu dici che lingua è quelli, da dove stanno parlando Gianfranco? Guarda, li sto vedendo anche adesso, però non mi sono fermato a vedere chi era, non sono neanche passato in banda laterale, però o sono i sovieti russi o probabilmente, dato che di lì mi sa che c'è ancora caldo, saranno grigi, però ripeto, non ne sono certo. l'altra volta, giusto per fare figo, ho attaccato il traduttore. E devo dire, caspita, che funziona anche con la radio. Praticamente c'ho un'applicazione che quando non sai chi sono, metti vicino questo oggetto, diciamo una specie di registratore, e in tempo reale ti traduce questo che stanno facendo. Ed è molto interessante, perché almeno sai più o meno quello che stanno dicendo, è a grandi linee. Ed è un traduttore praticamente. Lo so, c'è belle apparecchiature. Maico, dici che? Per il vero. Che figo, Gianfra. Ti fa traduttore, ma te lo traduce in italiano, sì. In qualunque lingua? Sì, ma lo traduce in italiano, ma può anche tradurre in qualunque lingua, quindi se devi fare una chiamata, che ne so, in turco, te la fa in turco. In cinese, te la fa in cinese. In arabo, lo stesso. No? Insomma, c'ha tantissime funzioni. Però ovviamente per usarla per un QSO crocro. Infatti sentivo due l'altra settimana che parlavano, uno era dall'Irlanda e l'altro era in Germania, che stavano parlando anche loro che c'è una situazione pazzesca, no? Quello lì stava dicendo, molti amici li ho perduti in cammino, eccetera eccetera. Anche qua da noi in Germania è un disastro, eccetera. Poi vai ad ascoltare qua i telegiornali in Italia, stiamo andando male, eccetera, ma mica sono una maniga proprio di pezzi di C, veramente. Non ho capito cosa hai detto già. Che non fanno per spaventare la gente a dire che le cose sono peggiori di quelle che sono. No, ma già non è quello il punto, ti dà fastidio il fatto che ci mettano sempre dietro la lavagna, capito? Questa è una sorta anche di offesa, perché cacchio, cioè uno lavora la mattina alla sera perché c'ha la convinzione di fare un'opera bene, diciamo per se stesso e anche per il proprio paese. Otteniamo dei risultati, non saremo bravissimi, non saremo dei geni, tutto quello che vuoi. Io accetto qualunque critica, però non puoi dire le bugie, siamo gli ultimi con i vaccini. Quelle cose lì sono offensive, cavolo, quando tutti ti stanno dicendo che dietro di noi c'è la Germania, dietro di noi c'è la Francia, ma stiamo scherzando, ma ci stanno prendendo veramente in giro questi signori. Beh, tante notizie false, veramente fatte per fare terrorismo, perché dicono quale poltrona le vogliamo noi. Ma ti pare io penso che la gente intelligente, e penso che ce ne sia molta, capisca al volo che veramente stanno esagerando, perché la critica, ripeto, va bene, ma questo è terrorismo veramente, cioè non fare creare confusione, creare casino come faceva quell'imbecille che sono andato di Trump, un maleducato, non ti dico. Se leggi la storia, c'è un resoconto sulla vita di quell'uomo, ti metti le mani in testa, chi era? Uno che arriva a buttarsi in acqua per prendere le palline da golf, ma ti immagini per dire no, la pallina non era in acqua, la pallina era a terra, cara, e l'hanno inquadrato raccogliendo dal fiume la pallina, no? È una vagogna, ve lo più dai. Casino. Un casino, cosa mi dico? Non lo so. È un casino. E tanto ho visto cosa ha organizzato, si è trovato i seguaci, faccio mai fare della guerra civile, è riuscito a organizzarsi tutto. Sì, ma di lì non sono come in Italia, no? Di lì c'è gente con le palle quadrate. Se non sta attento corre il rischio anche di finire male, perché se ne fanno l'impeachment e scoprono che, cioè lo condannano, diciamo, qualcosa, sono di lì, ce lo mettono dentro veramente. Intanto come uomo è finito, perché oramai se guardate i sondaggi anche chi era con lui lo ha abbandonato. quindi organizzerà qualche gruppo di pazzi furiosi, quelli saranno pure pericolosi, capito? Perché è vero che in America c'è il terrorismo arabo come c'è in tutto il mondo, cioè o meglio anzi non arabo, di quegli estremisti islamici, perché gli arabi poi non c'entrano niente. Però anche è vero che sono molto, molto più pericolosi i terroristi lì locali, americani, questi tipo quelli che hanno avuto la rete di entrare dentro il Senato. Quindi, tra l'altro se non ricordo male, avevamo fatto saltare in aria anche un paio d'anni fa la sede dell'FBI. Quindi è gente proprio fuori testa, tutti pieni d'armi, di cose. Io ho un cugino che è lì negli Stati Uniti, a Las Vegas. Ma guarda, c'è gente che deve stare attento. L'Italia in confronto fa sorridere, dicono noi non siamo importanti, però per essere importanti come gli Stati Uniti lascia perdere, perché almeno qua insomma la maggior parte delle persone vivono tranquillamente e campano fino a 100 anni se ci riescono. Eccolo, già è vero. Siamo in una situazione però, Giafra, che se la gente non si dava regolata, questa cosa sta correndo, sta andando più veloce il virus che i vaccini che dovevamo fare. Non stavo guardando, ma è vero che quelli che sono stati vaccinati dopo in Svizzera sono tutti morti? No, Claudio, mamma mia, no, assolutamente no. No, non è così. Io non so queste notizie, veramente sono notizie terroristiche. In Inghilterra sono già 2 milioni di vaccini e non mi risulta che sia morto nessuno. Può dare delle normali allergie, delle normali ma solo su qualche persona è previsto, ma questo lo dava anche il vaccino per la semplice influenza, non è come tutti i vaccini d'altro. Quindi sono tutte cose, ripeto, che stanno mettendo in giro per creare una sorta di terrore contro tutto e contro tutti. Ed è un problema questo, perché in una democrazia magari ti lasciano parlare, giustamente, ma se fossi in Cina ti finiresti in uno stadio con una pistola puntata alla testa, perché lì ci stanno poco, o in Russia lo stesso. Sono informazioni sbagliate, quindi il vaccino lo hanno fatto in tanti, in Italia siamo, credo, non so se hanno raggiunto i 2 milioni, una cosa del genere, e comunque non risultano effetti collaterali. La preoccupazione è che sta arrivando l'altro ceppo, che è molto resistente, cioè seguito i virologi che stanno studiando, ce n'è un ceppo che proviene dal Brasile, dove c'è quell'altro animale pari a Trump, che praticamente quello lì sì potrebbe essere addirittura immunizzato al vaccino, ma ancora ci devono studiare, che sta facendo strage. Tieni presente che 50 volte più potente è quello che ha subito l'Italia di lì in Lombardia, quindi figurati cosa ci aspetta nei prossimi mesi. E c'è gente che sta pensando alle elezioni, ma te le immagini, con una specie di guerra virologica che c'è in giro. Che schifo, guarda, non so più. Ho scritto l'altro giorno, infatti ti ho chiesto per voi c'era una cosa normale. Cosa vuoi che dica? Aspettiamo il tempo bello, vai già. Speriamo che avremo altri più migliori, ma mi pare che la terra si sta ribellando. Sì, ribellando di cosa già? Ribellando. E questo virus che ci ha messo alle strette ci sta mettendo veramente alla prova. E se non cambia, non lo so. Hai visto che stanno ribellando i trattori, quella hanno fatto vedere a Canale 5, in Alta Italia hanno aperto tutti, non gliene frega niente della multa e di cosa vanno incontro. Uno ha dichiarato: io devo lavorare, non devo morire di fame, a me non mi interessa, ci sono tutte le precauzioni, i tavoli sono attaccati, la gente ha tutta la mascherina, la abbassano per mangiare, sono gente tranquilla, io quando entrano le misure la temperatura, poi io devo lavorare, ha dichiarato. Infatti è andata la polizia, carabinieri, hanno insomma, chi c'era dentro a mangiare, c'erano più di 40 persone, capite? Poi cosa succede non lo so, ma alla fin fine vedrai che ce ne ballano tutti. Se vuoi un'idea giusta vai e cerca Giorgio Buongiovanni, oppure Giorgio Caria, su internet, e vedi la ribellione della terra che cos'è. Sì, perché purtroppo non c'è una minoranza, perché poi agli effetti è una minoranza. Io ho sentito un'intervista anche di un' italiana che fa una delle tante italiane che fa la ricercatrice negli Stati Uniti, e ha detto una cosa che a chi le sa queste cose dovrebbe fare ulteriormente paura. Ha detto che la città di Los Angeles ha chiesto il permesso alle autorità di superare i limiti del PM2. I limiti del PM2 praticamente sono del particolato, no? che serve dell'inquinamento. Hanno chiesto il permesso di inquinare, lo sai perché? Perché non c'hanno praticamente, se vogliono bruciare, quindi mandare all'inceneritore tutti i cadaveri che hanno, devono per forza inquinare. Quindi figurati negli Stati Uniti che in condizioni sono, che devono inquinare per poter bruciare le tantissime salme che hanno, non sanno più dove metterla. Ma ragazzi, di cosa stiamo parlando? Cioè, io vorrei lavorare, vorrei guadagnare, vorrei fare tutto, però se sono morto dei soldi cosa me ne faccio? Me lo dite? Va bene, effetti così. Però ribadiamo della terra che è dovuta all'inquinamento. Ma senti, ci sono sempre catastrofi, maremoti, terremoti, tutte cose che prima non si sentivano. Adesso si sentono molto spesso queste cose. Se poi ha sentito poi il presidente americano, la prima cosa che ha fatto è stata quella di fare le direttive d'urgenza per rientrare immediatamente nell'Agenzia per il controllo del clima, ecco, e quindi rispettare anche le cose. Ha bloccato subito l'oleodotto del Canada, perché se inquini lì è un disastro ambientale di proporzioni ciclopiche anche per tutto il pianeta. Insomma, la situazione, ragazzi, la verità è che tutti noi ci aspettavamo che queste cose se le grattassero i nostri nipoti o al massimo i nostri figli. Invece mi pare che la natura ha detto no, ve lo grattate anche voi, così vi imparate. E infatti la pioggia tutti i giorni, e tutto quello che sta succedendo, gli acciai che stanno sciogliendo e non li stiamo vedendo. È tutta roba che stiamo vedendo noi, non stanno vedendo i nostri pronipoti, eccetera, lo stiamo vedendo noi, quindi già questo dovrebbe far riflettere parecchie persone che continuano a fare gli altri.